San Vincenzo Romano nacque a Torre del Greco, in provincia e diocesi di Napoli, il 3 giugno 1751, in una famiglia di modeste condizioni economiche. Il papà si chiamava Nicola, la mamma Grazia. Era una famiglia profondamente cristiana che viveva, pur nella sua, diciamo, modesta condizione, il Vangelo. E venne battezzato lo stesso giorno della nascita con i nomi di Domenico, Vincenzo e Michele, anche se in casa tutti lo chiamarono Vincenzo, questo perché la famiglia stessa aveva una grande devozione a San Vincenzo Ferreri, il grande predicatore domenicano. Era una famiglia numerosa, come molte di quel tempo. Oltre a lui, l'ultimo nato, c'erano già i fratelli Pietro fu anche religioso tra i padri dottrinari, poi Giuseppe, Felice, Gelsomina e Angela. E fu proprio Gelsomina, che era, si veniva descritta come una monaca di casa, cioè una ragazza consacrata al Signore che viveva in famiglia, a occuparsi in particolare della sua educazione religiosa. Appena ebbe l'età, Vincenzo fu mandato a scuola e il suo maestro era un sacerdote che poi anche suo padrino di cresima. Aveva 7 anni quando ricevette la cresima e 3 anni dopo arrivò anche il giorno della sua prima comunione, che ricevette con una felicità enorme nel cuore. E qui già il Signore lavorava nel suo animo. Infatti arriviamo a 14 anni, il nostro santo già sentiva forte la chiamata del Signore. Era un po' titubante, però alla fine parlò ai genitori, confidando anche in quello che era il suo profondo essere cristiani, e disse loro che il suo desiderio più grande, quello che desiderava nella vita, era diventare sacerdote. I genitori diedero il loro assenso e la loro benedizione. All'inizio però non fu possibile, perché il seminario diocesano di Napoli, riservato allora ai giovani della provincia, aveva già molti seminaristi nativi di Torre del Greco. Era esattamente il contrario di quello che succede oggi. Allora ce n'erano troppi, oggi ce ne sono veramente pochi, purtroppo. Qui però non fu accolto. Lui ne fu molto dispiaciuto, possiamo immaginarlo, ma non si arrese. Questo era un suo carattere, forte, volitivo, desideroso di fare, ma soprattutto con una grande fede. Cercò allora di entrare tra i padri gesuiti, ma i genitori non vollero, perché avrebbe dovuto frequentare le loro scuole prima di essere ricevuto tra i novizi. Qui c'era un problema probabilmente anche di denaro, cioè di costo, che i genitori non riuscivano a sostenere. Alla fine cosa successe? Che un nobile della città di Napoli, questo nobile conosceva bene sia Vincenzo che la famiglia e li stimava, prese a cuore questo caso e, visto che era amico dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Antonino Sersale, ne parlò. Il cardinale accondiscese alla richiesta, ma da persona prudente, anche severa, dispose che i professori che dovevano esaminare Vincenzo fossero molto rigidi, molto severi nell'esaminarlo. E il nostro santo, con molta emozione, andò a fare questo esame e ne uscì con ottime valutazioni. E iniziò così l'anno scolastico 1765-66 con la sua formazione in vista del sacerdozio sotto la guida di un altro santo padre. Era un parroco, si chiamava Don Mariano Arcero, del quale restò molto amico anche negli anni successivi. Pensate che questo sacerdote, Don Mariano, è stato beatificato da Benedetto XVI nel 2012, questo a dirci anche la vita di santità e gli amici che aveva questo San Vincenzo Romano. L'anno dopo, intanto, ebbe anche un'altra grande grazia, e fu quella di poter ascoltare e di avere come maestro, almeno per quanto poteva, il grande Sant'Alfonso Maria dei Liguori, e lo incontrò proprio mentre predicava Sant'Alfonso la novena dell'Assunta. Ne rimase conquistato, e come questo santo, il suo amore più grande, oltre ad una devozione tenerissima per la Madonna, era la Santa Eucaristia. Possiamo dire che erano amici che non poteva letteralmente farne a meno, era calamitato da Gesù, tanto che allora i suoi compagni, gli altri seminaristi, per prenderlo un po' in giro, lo chiamavano Scialone, alludendo alla fame e al desiderio profondo e sincero che egli aveva dell'Eucaristia, di cui si nutriva ogni giorno. allora, diciamo, fino a quando non si era sacerdoti, nutrirsi dell'Eucaristia ogni giorno era una cosa insolita. E quello che colpiva però soprattutto i suoi compagni, gli altri novizi, era la gioia, una gioia che diventava visibile quando Vincenzo poteva trattenersi in adorazione davanti a Gesù Eucaristia. E così continuò questo cammino di penitenza, di preghiera, all'interno del seminario, e arrivò anche quello che lui chiamò il giorno più bello della sua vita. Infatti, con una gioia incontenibile, fu ordinato sacerdote il 10 giugno 1775. E qui fu inviato subito a svolgere il suo apostolato nella terra natia, cioè a Torre del Greco, e qui si dedicò a ogni sorta di attività, soprattutto spirituali, ma anche sociali. Ed era talmente grande il suo zelo e l'amore che metteva in quello che faceva, da essere soprannominato l'uprevete faticatore, cioè in dialetto vuol dire sacerdote lavoratore. Era viceparroco allora, e assisteva in particolare le famiglie dei tanti marinai di Torre del Greco, questa era una delle mestieri più in uso allora, che navigavano per il mondo, e queste famiglie però vivevano situazioni di grande povertà. Si dedicava ai malati soprattutto quelli di cui nessuno si prendeva cura ed erano abbandonati a loro stessi. Arriviamo così al 15 giugno 1794, è una data che, nemici, che portò sofferenze e morte in quella città, perché un'eruzione del Vesuvio distrusse quasi completamente Torre del Greco, compresa la chiesa in cui era lui, la chiesa di Santa Croce. Don Vincenzo, che aveva 43 anni, non si scoraggiò, e con le lacrime sincere e di dolore che gli rigavano il volto, nel vedere tanta sofferenza e tanta devastazione, pregando con grande pietà per i tanti morti, si rimboccò le maniche, dando un esempio agli altri, dedicandosi subito alla difficile opera di ricostruzione, sia materiale, ma soprattutto morale. Non conosceva stanchezza in quei giorni, e anche se era sfinito per tutto questo fare, non si fermava davanti a nulla. Chiedeva anzi a Gesù di dargli la forza di continuare, di aiutare i tanti fratelli nella sofferenza, nella povertà. Avevano perso tutto, non poteva fermarsi, disse, davanti ad uno sfacelo così grande. E qui fu praticamente lui un esempio, dicevamo, anche per la ricostruzione di questa città. Due anni dopo, siamo nel 1796, proprio per la grande stima che ormai molti avevano di lui, fu nominato economo curato dell'insigne collegiata di Santa Croce. All'epoca era l'unica parrocchia, la più grande della città, ma anche la più popolata del territorio diocesano. Vi dico che, per esempio, era molto grande allora, era la terza città della Campania come grandezza. Pensate che oggi Torre del Greco ha circa 85.000 abitanti, se non sbaglio. Comunque, ritornando al nostro santo, tre anni dopo questa nomina, esattamente il 23 gennaio 1799, il generale Championnet, sconfitte le truppe di re Ferdinando IV, entrò a Napoli. Il popolo era legato al Papa, al re, ma a Torre del Greco non mancavano anche simpatizzanti filofrancesi. E come in altri luoghi, anche in questa cittadina venne innalzato l'albero della libertà dei francesi, questo in piazza del Carmine, quindi in centro, e chiedendo proprio a San Vincenzo Romano di tenere il discorso per questa apertura, no? Naturalmente si rifiutò di farlo, anche perché, voglio dire, avrebbe dovuto in un certo senso quasi rinnegare il Papa, e non avendo voluto farlo, fu accusato e dovette comparire davanti al direttorio di Napoli in un tribunale improvvisato che aveva già deciso di condannarlo perché reazionario, pensate voi. Ma il signore aveva altri piani. Alla fine, per farla breve, non andò in carcere, perché qualcuno, ci viene detto che contava, garantì per lui. Nel frattempo, nel settembre dello stesso anno, morì il parroco di Santa Croce, Don Gennaro Falanga, e i governatori laici di Torre del Greco, nonostante tutto quello, anzi, diciamo che la stima era raddoppiata proprio per questa sua schiettezza nel dire sì o no, che avevano, allora i governatori laici avevano, di Torre del Greco come delle altre città, avevano addirittura diritto di nomina sui candidati alla successione dei parroci. E quindi proposero tutti concordemente Don Vincenzo. Lui invece, che non voleva farlo e non si sentiva degno di quella posizione, mandò un altro amico sacerdote da questi governatori per cercare di convincerli a ritirare il suo nome dalla lista. I governatori della città non tennero in nessuna considerazione quello che era andato a dire loro l'amico sacerdote di Don Vincenzo e decisero che fosse lui il parroco. Quindi fu nominato preposito curato delle insegne collegiata e chiesa parrocchiale di Santa Croce. E il possesso canonico ebbe addirittura luogo in forma solenne il giorno dopo. Durante la cerimonia San Vincenzo fu visto, ci viene detto, accigliato e pensieroso e piuttosto afflitto, umile e dispiacente, mentre intorno a lui tutti erano in festa, soprattutto i fedeli, perché gli volevano molto bene e sapevano che era un vero pastore, potevano fidarsi di lui. Alcuni giorni dopo, a chi gli chiedeva con una punta di sorridente malizia come si trovasse nei panni di preposito, rispose: «Camminiamo sopra l'acqua, come San Pietro», alludendo all'Apostolo che, invitato da Gesù a raggiungerlo, ricordiamo, camminando sulle acque del lago, ebbe paura e stava per affondare se Gesù non gli avesse teso la mano. E qui Don Felice Romano, che era il nipote del nostro santo, Don Felice imparò a fare il parroco alla scuola di questo zio santo, era in familiare intimità con lui, ne ricorda i sentimenti, i pensieri che ispiravano lo zio e documenta quello che allora San Vincenzo Romano diceva, rivolgendosi al Signore in quella particolare situazione. Diceva: «Signore, niente io posso, niente io sono, niente io so, la cura è vostra, nella vostra parola, come San Pietro io mi getto in questo mare. Gesù, io sono l'asinello sotto di voi. Voi guidatemi, voi tiratemi, voi regolatemi». Pastore di grande santità, aveva un ardore nel cuore, dicevamo, per l'Eucaristia meravigliosa, e questo gli faceva sgorgare dalla bocca delle parole di una predilezione particolare da parte di Gesù, convertendo molte anime, molti cuori. Quante persone piangevano durante le sue omelie, perché toccava i cuori, era il Signore che toccava le persone. E la sua era una predicazione fluente, non era ampollosa, anzi era facilissima a capirsi, anche perché la cultura non è che fosse granché. E allora i fedeli accorrevano, ma soprattutto seguivano, questo non era facile, seguivano e mettevano in pratica quello che ascoltavano, ma l'esempio lo dava lui per primo, lo dava con la penitenza, con la preghiera, con l'amore soprattutto, sempre a braccia aperte, come se fosse Gesù in croce, accoglieva tutti. Non solo, proprio per l'amore immenso che aveva per la Madonna, e sapendo la preziosità del rosario, lo sollecitava spesso, soprattutto quello serale. Anzi, affinché i fedeli potessero seguire meglio le celebrazioni della Santa Messa, scrisse proprio un opuscolo su questo argomento. E alla ricerca di sempre nuovi modi per avvicinare i fedeli, introdusse a Torre del Greco la cosiddetta sciabica, cioè era una strategia, possiamo dire, missionaria, e prendeva il nome da un tipo di pesca a strascico e si attuava in questo modo, cioè il predicatore, cioè il sacerdote, nei giorni festivi girava per le piazze, per le strade, attirando la gente con un campanello. Improvvisava quindi una predica nel momento, tenendo il crocifisso in mano. Se le persone incuriosite si avvicinavano, il sacerdote le invitava ad accompagnarle poi nella chiesa o nella cappella più vicina, ed erano molte, per pregare insieme. Dice il nipote, Don Felice, che lo zio era solito ripetere: «La parola di Dio è quella prodigiosa semenza che produce buona vita, buona morte e il paradiso. lasciate sempre che in ogni parte sia aperta questa fontana a beneficio delle anime, quindi il Vangelo. Non solo incitava tutti i rettori, i sacerdoti preposti alle chiese di città e della campagna a non lasciare mai, mai il loro popolo digiuno della parola di Dio, specialmente della spiegazione del Vangelo la domenica, e si dimostrava anzi disponibile nell'autorizzare altri preti e altri sacerdoti a predicare nell'ambito della sua parrocchia. Non era geloso della sua parrocchia, anzi apriva il cuore, le braccia, apriva le porte e diceva agli altri sacerdoti: fate tutto ciò che è di gloria a Dio, andate, diceva, e predicate. E quello che colpisce proprio nell'infaticabile opera di questo grande apostolo era, dicevamo, la carità, l'amore vero, sincero, che donava ai fratelli in ogni momento, sia sotto l'aspetto spirituale ma anche sotto quello materiale. Voleva condividere con essi fino in fondo tutto, le gioie, i dolori, le speranze. E non solo, un altro campo di azione, e allora erano molti, a cui teneva tantissimo, erano proprio i giovani. Quanti giovani, moltissimi sulle strade, senza un'educazione, senza una cultura. Allora cosa faceva? Li radunava, per quanto era possibile, tutti in casa sua, tantissimi ragazzi nella sua casa, dove gratuitamente teneva lezione per i vari ordini di scuola e di età. Dicevamo di questo amore grande per i suoi fedeli, no? E soprattutto nella Santa Messa era estremamente rigoroso, proprio nella celebrazione dei sacri misteri, rivelandoci, viene detta, un'esattezza angelica, come fu definito da uno dei testimoni chiamati a deporre il processo di beatificazione. Esattezza angelica nei suoi gesti, nelle sue espressioni proprio di raccoglimento, di devozione, e lacrimava. Piangeva visibilmente durante la consacrazione, tremava addirittura, pensate, al momento dell'elevazione dell'ostia, e faceva la Santa Comunione con un viso, ci viene detto, infiammato di un amore divino. Insomma, per lui la Santa Messa era il tesoro delle grazie e fonte e scopo della sua esistenza. E si impegnava, dicevamo, non soltanto sotto il profilo spirituale, nel far crescere le sue pecorelle, ma anche nelle questioni economiche e sociali. C'erano allora, diciamo, dei diverbi tra gli armatori delle coralline e i marinai che affrontavano la fatica e i rischi della pesca e non avevano nessun tipo di tutele in questo caso. E lui allora andava dagli armatori, che erano quelli che avevano, diciamo, le persone benestanti, e difendeva i marinai, cercava sempre di trovare un punto d'incontro affinché ci fosse una pace, una serenità, una cordialità, anche per continuare. I marinai avevano bisogno di lavorare, come gli armatori avevano bisogno di queste persone, di questi marinai. E non solo, si interessava allora per riscattare gli abitanti di Torre del Greco che erano addirittura caduti in schiavitù dei corsari. Andava con uno zelo infaticabile per sorprendere, ci viene detto, i delinquenti, per distruggere addirittura i luoghi in cui la criminalità comune organizzata poteva attecchire e dove c'erano raduni e loschi affari disonesti. Non abbandonava mai i fedeli che amava profondamente, anche durante i diversi cambiamenti politici, scompigli politici che Torre del Greco visse, né durante le altre eruzioni del Vesuvio o altri disordini che avvenivano nella città. Fu sempre presente, impegnato proprio anche nelle periferie, come ci chiede il Papa, presente, impegnato sulla strada nelle persone da salvare, persone, cari amici, che incontrava ovunque, nelle pubbliche piazze, per le strade, nelle campagne vastissime allora di Torre del Greco, alla marina, nelle case, andava a trovare tantissimi dei suoi fedeli, cercando di portare una parola di conforto, di pace, di serenità. cercando soprattutto di convertire i cuori. Così concretizzava quello che espresse in una sua omelia ai suoi confratelli sacerdoti. Disse così: «Noi siamo luce del mondo per risplendere coi buoni esempi, ma dove non v'è fuoco, neppure v'è luce. Dobbiamo istruire, ammonire, ma senza la carità saremo un bronzo sonante, un cembalo che rimbomba, perché chi non arde non accende. La carità è la regina, anima, forma di tutte le virtù, di tutte le opere buone. Senza questa carità saremo niente, niente ci gioverà». E arriviamo anche al 1827, quando vide anche la ricostruzione della nuova chiesa di Santa Croce, di cui lui era praticamente il parroco, e a quanti criticavano alcuni veramente questa sua scelta, la chiesa infatti era più grande di prima, rispose profeticamente: «Ci saranno giorni in cui questa chiesa non basterà a contenere i tanti fedeli che vi accorreranno». E fu così. Lui addirittura è sepolto all'interno di questa chiesa. E sulla porta centrale, proprio per l'amore grande che aveva per il Signore, volle che fosse apposta una lapide con queste parole: «Per la meravigliosa provvidenza di Dio». Era un ringraziamento. Ma quello che gli stava particolarmente a cuore allora erano, dicevamo, i sacerdoti. Sapeva i pericoli che correvano, la mancanza di fede a volte. E allora gli argomenti che lui prediligeva, questo come emergono dai titoli delle prediche giunte fino a noi tra le sue carte, erano, per esempio, le meditazioni la faceva sulla morte dei sacerdoti, oppure sulla beatitudine di un santo sacerdote nel cielo. Un altro titolo su cui, diciamo, ha fatto una media meravigliosa era dell'amore dei sacerdoti verso Dio, oppure dell'obbligo degli ecclesiastici di combattere per l'onore di Dio. Un altro tema molto interessante e molto importante per lui, su cui dedicava molta attenzione e delle bellissime omelie, fu con il titolo «Sul buon esempio dei sacerdoti e dello zelo che debbono avere i sacerdoti per la salute delle anime». Insomma, aveva un'attenzione particolare verso i tantissimi confratelli, erano molti, ma c'era anche il pericolo, era sempre alla porta, soprattutto allora, vuoi perché c'era molto orgoglio, vuoi perché c'era molto potere da parte di alcuni, insomma, c'era l'umiltà, era molto, diciamo, era molto limitata, se vogliamo usare questa espressione. In un'altra predica, proprio al clero, aveva titolato così: «Le opere buone si debbono fare bene. Ordinariamente, disse, ci contentiamo di fare e di inculcare gli esercizi delle opere buone, ma poco, disse, a loro si bada a praticare o insegnare, oppure la maniera di farlo bene, come se ciò fosse o superfluo o impossibile o inutile». E la predica era tutta dedicata a convincere i confratelli, diceva, a far bene le sublimi funzioni sacerdotali, e terminava poi con una preghiera bellissima di intercessione a Gesù per questi, diceva, questi dilettissimi miei fratelli, vostri ministri, o Gesù, che mi avete dato in aiuto per reggere questo vostro gregge. Stesso, dicevamo, dava un esempio vero, concreto, si alzava di buon'ora donandosi all'orazione mentale, in solitudine, nel silenzio, percorreva poi il breve tragitto tra la sua modesta abitazione e la chiesa parrocchiale, dove celebrava la Santa Messa. Dopo il ringraziamento si andava in sacrestia, dove lo aspettava sempre un gran numero di persone, che gli chiedeva di aiutarli, lo abbiamo visto, nei loro bisogni temporali e spirituali. Dopo averli ricevuti, si raccoglieva poi ai piedi del tabernacolo e recitava il breviario. Si nutriva in modo meraviglioso della grazia necessaria poi per dedicarsi alle confessioni con la preghiera e l'Eucaristia. E al confessionale, cari amici, agiva, ci viene detto, con carità e pazienza, pazienza e carità, ricercando il giusto mezzo fra rigore e colpevole condiscendenza. Poi, all'ora di pranzo, quando riusciva a rientrare a casa, c'era un pasto che lo attendeva, molto frugale. Poi rientrava subito in parrocchia e allora restava in adorazione ai piedi di Gesù, spesso per ore intere, suscitando la più viva ammirazione e commozione dei fedeli. E proprio da sacerdote diceva agli altri sacerdoti: noi siamo gli operai della vigna della Chiesa, operai che dobbiamo coltivarla e raccogliere le messi. In questa Chiesa, diceva San Vincenzo Romano agli altri sacerdoti, vi sono peccatori da convertirsi, deboli da rassodarsi, ignoranti da istruirsi. Tutti hanno bisogno degli aiuti dei sacerdoti. Devotissimo all'Immacolata, scrisse per i suoi parrocchiani un libretto con le meditazioni dei 15 misteri del Rosario, intitolato Il Santissimo Rosario di Maria Vergine e Canali di Grazie. Riprendo solo qualche stralcio di questi bellissimi commenti. Per esempio, nel primo mistero del Gaudio, cioè l'annuncio dell'angelo a Maria, invitava a contemplare, scrive, l'eccessiva carità del Figlio di Dio, il quale per nostro amore e per la nostra salvezza si fece uomo. Noi dunque, dice, dobbiamo amarlo, perché egli prima ha amato noi. La Vergine Santissima, nell'atto di essere sublimata all'altissima dignità di Madre di Dio, profondissimamente si umilia. Dice San Vincenzo, ecco la serva di Dio, si faccia di me secondo la tua parola. Qui, dice, insegna a noi l'esercizio dell'umiltà per essere esaltati. Questa invece è un'altra meditazione sul quinto mistero doloroso, cioè la crocifissione e la morte di Gesù. Scrive, anima cristiana, guarda il tuo Signore, guarda la tua vita che pende da quella croce, vedi trafitte da chiodi quelle mani e quei piedi divini. Alza gli occhi, domanda a Gesù, mio Gesù, che sono queste piaghe in mezzo alle tue mani e piedi? Egli ti risponde, sono segni del grande amore che ti porto, sono il prezzo col quale io ti libero dalle mani dei nemici e dalla morte eterna. Dirà anche a te le stesse parole, e se hai peccato, ricorri a Gesù, che ti perdona. Gesù in croce, dice San Vincenzo, Gesù in croce, poco prima di morire disse, tutto è compiuto. Dando un'occhiata a tutta la sua vita, pensò, tutte le profezie che parlavano di me si sono avverate, la redenzione del genere umano si è perfezionata. Questo è il modello che dobbiamo sempre tenere davanti agli occhi. Infine, sul quinto mistero glorioso, cioè l'incoronazione di Maria Santissima, scrive, la Vergine Santissima amò Dio più di tutti gli angeli e santi insieme. Dunque ha ragione e la gode più gloria di tutti. Maria Santissima, in mezzo a tanta sua gloria, non si dimentica di noi, ma è tutt'occhio per vedere le nostre miserie, è tutto cuore per compatirci, è tutta mano per aiutarci. Se grande fu la sua misericordia verso i miseri, stando ancora in questo esilio, molto maggiore, dice San Vincenzo, è la sua misericordia verso i miserabili, mentre regna in cielo. Dunque prega l'Avvocata nostra. Questo è proprio il grande amore per la Madonna. Così questo santo sacerdote, cari amici, ha donato la sua vita facendo il pastore della parrocchia di Santa Croce per circa 35 anni e struggendosi, come egli diceva, per il popolo a lui affidato. E se i suoi contemporanei lo chiamavano già il santo, questo avveniva non solo per la sua meravigliosa dottrina, neppure per i tanti fatti straordinari o miracolosi che si riferivano a lui, per esempio la guarigione dalle malattie, oppure la presenza del pane, bensì perché egli era per tutti, un segno di salvezza. Era proprio l'amore di Dio e dei fratelli che si manifestava come una costante della sua vita e del suo fare. E lui insisteva molto sull'umiltà, e proprio la sua caratteristica principale fu questa, l'umiltà, e batteva molto su questo chiodo. In una predica affermò, con la virtù dell'umiltà siamo santificati noi e santifichiamo gli altri uomini ancora. La vera santità e la vera umiltà sono così connesse tra di loro che dove è santità vi è anche umiltà. E arriviamo, cari amici, anche agli ultimi anni della sua vita. Aveva donato tutto se stesso e sembrava che avesse più anni di quelli che effettivamente portava, aveva. Arriviamo al 1 gennaio 1825. Mentre si alzava dal letto, il nostro santo cadde fratturandosi il femore sinistro. Aveva 74 anni. Fu rimesso subito di nuovo a letto, ma lui aveva insistito di alzarlo perché la gente lo aspettava in chiesa. «Mi è avvenuta per i peccati miei», rispondeva a chi gli domandava come stesse, ma in chiesa ci andò. E così ancora per alcuni anni andò avanti con la malattia, donando tutto al cuore divino di Gesù e rifugiandosi nel cuore immacolato di Maria. Poi il 2 febbraio 1830, quel giorno, scese in chiesa per l'ultima volta per celebrare la Santa Messa, ma svenne e fu subito riportato in casa. Qui ai dolori del femore si accompagnavano le piaghe alle gambe, ma lui cercava di sopportare tutto, dedicandosi alla preghiera, alle visite che riceveva nonostante stesse male, però voleva avere vicino a sé le persone comunque per rincuorarle, per dare una buona parola, e poi la gente non lo lasciava in pace, cioè per loro era il padre per eccellenza, no? E lui volentieri apriva il suo cuore sempre, anche se, diciamo, i suoi confratelli un po' protestavano, insomma, in questo senso. E arriviamo così al 16 dicembre dell'anno successivo, siamo nel 1831, il nipote, Don Felice Romano, lo trovò molto peggiorato, aveva purtroppo contratto anche la polmonite. Ed allora Don Felice lo vegliò costantemente, alternandosi con altri sacerdoti. Questa malattia però si aggravò e non gli lasciò scampo. E il Signore lo prese così, santamente a 80 anni, erano le 11 del mattino del 20 dicembre 1831. Pensate, un mese prima, a novembre, aveva scritto il suo testamento spirituale, nel quale raccomandava la carità fraterna a tutti i sacerdoti di Torre del Greco. E proprio per la fama di santità di cui godette in vita, fu da subito sepolto nella parrocchia di Santa Croce, da lui riedificata nella cappella di San Francesco di Sales. E col passare degli anni, proprio il suo ricordo e la sua buona fama non vennero mai meno. Si procedette quindi all'apertura della causa di beatificazione. E il decreto per l'introduzione della causa porta la data del 22 settembre 1843, quindi pochi anni dopo la sua morte. E in quella circostanza proprio Papa Gregorio XVI espresse un desiderio, disse: «Gloria a Dio che dopo il corso di più di 18 secoli dalla fondazione della Chiesa abbiamo un parroco santo». Intanto, alcuni anni dopo, siamo nel dicembre del 1894, Papa Leone XIII rivelò che non fosse lontano che l'Italia avesse un sublime esempio di parroco proposto al clero secolare, quindi un esempio a tutta la Chiesa, in modo particolare proprio ai parroci. Da lì a poco, il 25 marzo 1895, quindi l'anno successivo, Leone XIII autorizzava la promulgazione del decreto e dichiarava Don Vincenzo venerabile. E arrivarono anche i primi due miracoli, ne bastava uno, ne arrivarono due per la beatificazione. Coinvolsero due donne di Torre del Greco, erano Maria Carmela Restucci, che fu guarita da un tumore, e a Suor Maria Carmela Cossolino. Questa suora in precedenza era affetta da una gravissima malattia alla gola che le impediva addirittura di respirare, quindi rischiava di morire. E qui ci fu poi una pausa di circa 70 anni e ci fu il giorno della beatificazione. Fu beatificato, pensate, da San Paolo VI il 17 novembre 1963. E Papa Paolo VI disse: «Salutiamo il nuovo beato Don Vincenzo Romano e rallegriamoci nel Signore che ci lascia contemplare come cittadino del cielo questo suo fedele ed esemplare seguace. Abbiamo motivi particolari non pochi per essere lieti di questa glorificazione, oltre quello principale dell'onore che è così tributato al Signore e che ridonda sulla Chiesa intera, la quale vede l'albo dei suoi figli vittoriosi arricchirsi del nome d'un nuovo eletto. Non possiamo tacere che uno di questi motivi è costituito dal fatto che questo beato romano era napoletano di Torre del Greco». Concluse poi in questa breve omelia San Paolo VI, il Papa Paolo VI: «Ai parroci soprattutto siamo felici di additare un loro fratello in cielo, ad essi va anche in questa occasione il nostro particolare ed affettuoso pensiero. Possa il Beato mostrare loro la grandezza della loro missione e pensando in quali difficili e modeste condizioni tanto spesso si svolge il loro ministero, ricorderemo loro che non sono gli orizzonti geografici ad allargare quelli dello spirito, ma la vastità degli orizzonti dell'anima, a dare anche ad un luogo minuscolo le dimensioni dell'universo. E voglia questo nuovo beato, dice Paolo VI, e voglia questo nuovo beato loro mostrare che è come un sacerdote in cura d'anime deve essere santo. Voglia lui sostenere i loro disagi, compensare le loro privazioni, fortificare il loro spirito di sacrificio e di disinteresse, consolare le loro pene, premiare le loro fatiche». Che è proprio l'amore grande, sincero, che San Vincenzo Romano aveva per i confratelli, che porta Paolo VI a dare queste parole in questa omelia. E qui, 20 anni dopo, siamo nel 1983, un altro santo papa, San Giovanni Paolo II, proprio in occasione dei 20 anni della beatificazione di Don Vincenzo Romano, affermò: «Leggendo la sua biografia, disse Giovanni Paolo II, si rimane impressionati dalla zelante azione pastorale che egli esercitò ininterrottamente per ben 32 anni, non allontanandosi mai dalla sua parrocchia, talmente era occupato fin dall'alba nella preghiera, nella celebrazione della Santa Messa, nell'ascolto delle confessioni, nella catechesi dei bambini e degli adulti, nella visita agli ammalati, nello svolgimento di pratiche familiari e sociali, nell'avvicinare persone lontane dalla fede per stimolarle alla conversione». E pensate anche Padre Pio, San Pio da Pietralcina, ai fedeli di Torre del Greco che si recavano a San Giovanni Rotondo, ripeteva spesso: «Cosa venite a fare qui voi che avete Vincenzo Romano?» Ovviamente perché c'era il corpo che riposa ancora attualmente lì nella parrocchia di Santa Croce, nella Basilica di Santa Croce, quindi dice le grazie, andate a chiederle a lui, è lì. E qui proprio nel 1965 San Vincenzo Romano fu eletto patrono di tutti i sacerdoti, parroci e non, di tutte le diocesi della Campania. E proprio tornando Giovanni Paolo II, nella sua visita pastorale alla diocesi di Napoli, volle fare tappa proprio a Torre del Greco, e dopo aver venerato i resti del nostro santo, invitò i fedeli, disse, a riprendere, disse il Papa ancora oggi, il programma pastorale del Beato per inserirlo nelle moderne tensioni sociali con il suo stesso fervore e la sua medesima passione. E che passione, cari amici! E concludo dicendo qual era l'altro miracolo per la canonizzazione. È stato quello della guarigione di un signore di Torre del Greco, Raimondo Formisano, era un piccolo commerciante di frutti di mare, padre, pensate, di 14 figli. Lui nel febbraio del 1989 si sottopose ad alcuni esami e purtroppo l'esito fu che aveva un tumore all'addome e fece 3 cicli di chemioterapia. Poi interruppe questo trattamento, ma era profondamente convinto che all'allora beato Vincenzo Romano l'avrebbe comunque guarito. Era una convinzione incrollabile. Insomma, per questa ragione ci furono preghiere continue, incessanti, da parte della moglie, dei figli, dei parenti, degli amici, insomma di tutte le persone che gli erano vicine. Insomma, fatto sta che nel luglio successivo Raimondo cominciò a riprendersi e, pensate, agli inizi del 1990, cioè l'anno dopo, gli esami dimostrarono chiaramente che il tumore era scomparso. Per questo miracolo, che fu dichiarato tale dalla Chiesa, il 6 marzo del 2018, Papa Francesco, autorizzando la promulgazione del decreto, aprì la via della canonizzazione e lui stesso celebrò il 14 ottobre successivo, quindi del 2018, ma la cosa singolare, pensate, che tra i 7 nuovi santi di quella domenica, del 14 ottobre, c'era anche Paolo VI, che, come abbiamo visto, aveva beatificato Don Vincenzo Romano.